sotto le coperte, mille storie chiuse in un involucro di sabbia, piove sulle nostre idee, piove su di me. Piangerei per te, ripenso a quanto inutile ostinarsi a dialogare, non sentiamo che le cose hanno bisogno di restare un po', solo un po' in silenzio. Stringimi piano a bassa voce, non ho voglia di parlare, sento che per comunicare ho voglia di restare un po' da solo, senza quel mondo che mi lega, mi trattiene, non dà pace. Mi rivesto nel profumo di una strada calpestata, cerco i fiori dell'inverno in un'estate che ha bruciato tutto, tutto intorno a me. Resto inutile, ma se mi guardassi da lontano, potresti dirmi cosa vedi, allontanare i tuoi segreti ed aiutarmi a vivere da fuori, considerando che non ho forza per amare, ma solo per poterti dire, non parlare, ascolta i suoni e le espressioni del silenzio insieme a me. Insieme a me.